Che a questo mondo non ci fosse più religione lo si affermava una volta per commentare questa o quella situazione di particolare rilassatezza morale. Lo si affermava una volta perché oggi, almeno a giudicare dalla popolarità mediatica del Papa, dai diktat del Cardinale Ruini, dalla prontezza con cui vi ci si adeguano i vari Rutelli, l'impressione è che di religione in giro ce ne sia anche troppa. È vero che certe anime buone ritengono, possono ritenere che i fenomeni di cui sopra con la fede in Dio non abbiano poi molto a che fare, ma è anche vero che la questione è sub iudice, in questa sede non possiamo certo pretendere ad affrontarla, e non è detto comunque che religione e fede in Dio nel sistema corrente degli scambi ideologici debbano di necessità identificarsi. In compenso ci si può azzardare a sostenere con una certa ragionevolezza che non c'è più mitologia. L'osservazione va calibrata con cura, visto che di miti ne circolano ancora parecchi, di gente che ci crede continua ad essercene una marea, ma è certo che la cara vecchia mitologia che ci insegnavano a scuola, quel corpus organico di racconti sugli dèi e sugli eroi di cui si sostanziava la poesia dei nostri maggiori, ha perso da un pezzo il suo appeal. Sarà la crisi degli studi classici, sarà il pressapochismo imperante, ma è un fatto che quando qualcuno nel parlare corrente o in qualche occasione ufficiale azzarda una citazione mitologica, 9 volte su 10 la sbaglia. Prendiamo Berlusconi, per esempio. Gli è capitato parecchie volte in campagna elettorale di dichiarare che quanti tra i suoi avversari prevedevano grossi guai per il paese se lui fosse rimasto in sella, specie dal punto di vista economico e sociale, non fossero altro che delle Cassandre, dei profeti di sventura destinati a restare delusi. Questa i salesiani, presso cui l'ex presidente si vanta d'aver fatto il liceo, non gliel'avrebbero lasciata passare troppo facilmente. Cassandra, la più bella delle figlie di Priamo di Ecuba, non aveva ricevuto da Apollo come dono la capacità di prevedere le sventure, perché quello semmai era un portato dei tempi. Aveva ricevuto la maledizione di riconoscere chiaramente la verità, quale che essa fosse. Le sue profezie erano più precise di una statistica dell'Eurostat, e il fatto che non ci credesse nessuno andava a totale disdoro degli increduli, non certo suo. Va bene, direte voi, ma Berlusconi è Berlusconi, sappiamo tutti che a volte gli capita di parlare, come si dice, per dar aria alla bocca, e chi se ne importa. Sì, ma Bertinotti? Bertinotti, il presidente della Camera, ne converrete, è uomo di tutt'altra pasta, di ben diverso spessore culturale e morale. Eppure ogni tanto va anche lui ad avvenarsi nelle secche infide degli esempi mitologici. Martedì scorso, parlando a certi non meglio definiti manager riuniti in un posto che si chiama Villa Miani a Roma per sentire e discutere di leadership e narcisismo, rischi e opportunità nell'ambito delle Economist Conferences, qualsiasi cosa esse siano, ha detto che un uomo politico che appare sistematicamente in pubblico deve essere un narciso e che negarlo è ipocrita. E stando al Corriere del giorno dopo ha corroborato questa opinione con qualche garbata allusione al pontefice e persino con un sommesso riconoscimento autocritico. Sembra che tutti si siano divertiti molto e lo abbiano trovato spiritosissimo. Ma ciò è successo perché tutti evidentemente hanno preso il suo stesso abbaglio. È vero che oggi con il termine narcisismo si intende nella psicologia spicciola, se non in quella ufficiale, una certa innocua tendenza a bearsi con la contemplazione di sé. Ma questa accezione non esaurisce la valenza del personaggio narciso. Gli antichi, Ovidio per dirne uno, raccontavano la sua storia per far capire che concentrarsi su se stesso può condurre la lettera in acque molto pericolose. E ricordate, no? Questo narciso era il figlio del dio del fiume Cefiso per essere più precisi, e della ninfa Liriope. Quindi, nella terminologia arida degli studiosi moderni, era un demone acquatico, no? Ma era così bello, ma così bello che tutte, ma proprio tutte, se ne innamoravano e nessuna riusciva a far breccia nel suo durissimo cuore. E tra le vittime del suo fascino ci fu, tra le altre, la ninfa Eco. La ninfa Eco che se ne strusse tanto da sparire, lasciando al ricordo di sé soltanto la voce disincarnata che rimbalza da valle in valle. Sì che fu una giusta vendetta degli dei quando lo sciagurato, vedendo all'improvviso la propria immagine riflessa in uno specchio d'acqua, se ne innamorò follemente e da questo, consumato di questo impossibile amore, a sua volta morì. O come poeticamente raccontano altre versioni, morì annegato nel vano tentativo di abbracciare quella figura riflessa. Personaggio negativo dunque, una figura incapace di relazionarsi con gli altri e destinato a perire vanamente come vanamente era vissuto. Ecco, io non credo naturalmente che Bertinotti, svarioni mitologici a parte, possa essere considerato un narciso di questo genere. È il presidente, è uomo di troppo solido buonsenso per perdere il contatto con la realtà, e quanto a compiacimento di sé sembra di gran lunga meno portato del suo immediato predecessore. Chi proprio lo volesse paragonare a una figura mitologica, almeno a giudicare dalla disinvoltura con cui in questi giorni si è calato nei panni istituzionali, come se in vita sua non avesse mai fatto altro che ricevere ambasciatori, partecipare ad assemblee della Banca d'Italia e assistere a parate militari, anche con l'usbergo di una spillina pacifista, potrebbe semmai proporre la figura di Proteo, il dio marino che era in grado di assumere mille forme di acqua, di fuoco, d'animale, e si avvaleva, racconta Omero nell'Odissea, si avvaleva di questa facoltà soprattutto per sfuggire a chi gli poneva delle domande troppo precise. E questa naturalmente non è una caratteristica esclusiva di Bertinotti, coinvolge piuttosto tutti i politici, tutti i nostri politici, che dalla capacità di presentarsi sotto aspetti diversi a costo di eludere a volte le aspettative altrui, traggono la propria inesausta vitalità, a patto naturalmente che riescano a tenersi lontani dagli specchi d'acqua.